La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata. Questo è il podcast di Effetto Giorno. Come sempre al microfono c'è Simone Spezia. I nostri contatti sono effettogiorno@radio24.it per l'email, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Come sempre in questa sede cerchiamo di rimettere insieme i pezzi di questa giornata. Proviamo naturalmente a farlo, se ci siamo riusciti, se non ci siamo riusciti, scriveteci, fatecelo sapere, diteci quello che pensate e mi raccomando iscrivetevi al podcast se lo avete scaricato per caso, così potrete avere l'aggiornamento costante, cioè quando arriva il podcast vi arriva una piccola segnalazione, una piccola notifica o sul vostro browser che usate per navigare su internet oppure per esempio sul vostro cellulare, sul vostro smartphone. L'apertura di questa giornata non può che essere un'apertura dedicata agli esteri, soprattutto perché a Marsiglia è tornata la paura, il timore di un attentato. Ora, probabilmente non si tratta di quello, si tratta di un assalto comunque con dei Kalashnikov nel giorno della visita del premier francese in quella che è la seconda città di Francia. Parleremo di questo, così come ci occuperemo di Ucraina, sentiremo un'opinione su quella che è la posizione russa, che alle volte noi dal nostro lato, dal lato europeo, tendiamo ad escludere dalla nostra visuale, ed è una posizione della quale naturalmente, a prescindere che la si condivida oppure no, bisogna evidentemente tenere conto, perché è una parte in causa. Avremo molta cronaca, parleremo del maltempo che sta colpendo il centro-sud, ma soprattutto degli effetti delle nevicate dei giorni scorsi, perché ci ha raccontato in onda il presidente della provincia di Reggio Emilia. In quella provincia, soprattutto nelle zone dell'Appennino, ci sono ancora 1200 utenze senza corrente da 4-5 giorni sostanzialmente. Parleremo di mafia perché c'è stata un'importante operazione oggi e ci sono dei commercianti che hanno finalmente deciso di denunciare il pizzo. E sempre in tema di cronaca parleremo della chiusura delle indagini da parte della procura di Cremona per la questione del calcio scommesse. Molti nomi eccellenti dentro, su tutti quello nuovo emerso in queste ore è Colantuono. Di quelli emersi precedentemente ma che si pensava potessero essere sostanzialmente fuori da questa inchiesta c'è l'attuale CT della Nazionale e all'epoca allenatore del Siena, Antonio Conte. Insomma, si pensava che andasse verso l'archiviazione e invece verso l'archiviazione non è andato e c'è l'accusa di frode sportiva. Parleremo di un'eccellenza italiana all'estero, un'italiana, una grandissima costumista italiana che ha vinto il BAFTA per i costumi di Grand Budapest Hotel. Cosa sono i BAFTA? Sono, per farla molto semplice, una sorta di Oscar britannico e potrebbe vincere anche l'Oscar per i costumi di Grand Budapest Hotel, tenendo presente che sarebbe il suo quarto Oscar. È una donna che ha lavorato con un genio del cinema come Stanley Kubrick e con lui ha vinto il suo primo Oscar per Barry Lyndon. Vi racconteremo la sua storia. Infine parleremo di calcio, il calcio che ci racconta in queste ore soprattutto, oltre che di calcio scommesse, come si diceva, di polemiche, le polemiche tra Juventus e Milan. Iniziamo da Marsiglia con Valeria De Rosa. Non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa stia succedendo a Marsiglia, dove nel quartiere La Castellana, nord della città, colpi di Kalashnikov e uomini armati incappucciati sono stati segnalati dagli abitanti. Il quartiere è stato interamente isolato dalla polizia, un asilo nido è stato evacuato, decine di poliziotti e un elicottero sono sul posto, così come i reparti speciali della Polizia Nazionale. Non dovrebbero esserci feriti e, secondo quanto afferma un sindacalista della polizia della città, si tratterebbe di 5 uomini che indossano una divisa militare e hanno almeno 2 Kalashnikov. Al 90% si tratta di una questione legata al traffico di droga, ha aggiunto questo sindacalista. Non penso sia una sfida lanciata allo Stato, ma succede spesso quando ci sono visite importanti. E come ricordavi, il sindacalista si riferisce alla visita di oggi del premier francese Valls a Marsiglia, proprio per sottolineare, ironia della sorte, i risultati delle misure adottate in materia di sicurezza della città nel contenere la delinquenza nei quartieri problematici. La Castellana è descritto come un quartiere dormitorio, uno dei più poveri fra quelli a nord di Marsiglia, 8.000 abitanti, molti palazzoni e traffico di droga. E secondo i racconti, i giovani armati hanno sparato sulle auto della polizia che stavano perlustrando la zona. Anche secondo il sito di Le Figaro, si tratterebbe di un regolamento di conti tra bande rivali proprio sul traffico di droga. L'Ucraina, sono ore di trattative, di intensa attività diplomatica con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che vola a Washington, vuole evidentemente confrontarsi con gli americani anche sull'ipotesi che è circolata nelle scorse ore di armare Kiev, cioè gli americani sarebbero intenzionati ad armare Kiev. In realtà stanno facendo qualche passo indietro da questo punto di vista, ma è un'ipotesi che evidentemente Angela Merkel vuole scongiurare, perché genererebbe un livello di tensione insopportabile. Questo ce l'ha spiegato bene anche Aldo Ferrari, che insegna all'Università Ca' Foscari di Venezia, è un esperto di Russia ed è anche un ricercatore dell'ISPI. Sentiamo cosa ci ha detto. Spero che Angela Merkel riesca a convincere gli Stati Uniti, che comunque sono già perplessi riguardo a questa fornitura di armi, a non farlo, perché sarebbe un passo molto grave, un errore di quelli storici. Il conflitto nell'est dell'Ucraina deve essere congelato, arrestato e non ravvivato, cosa che farebbe sicuramente una fornitura di armi. Il momento diplomaticamente è delicatissimo, si spera che finalmente l'Europa stia facendo la sua parte, cioè cercando di lavorare seriamente a un progetto di pace che deve includere la Russia. Non si può soltanto emanare sanzioni, metterla nell'angolo dei cattivi. Con la Russia bisogna fare i conti, bisogna parlare, bisogna ascoltare e non sempre pensare di avere ragione. Quando c'è una crisi normalmente le responsabilità sono condivise, e se l'Europa non avesse commesso gravi errori non saremmo a questo punto. Speriamo che in questi giorni si riesca a migliorare la situazione. Senta professor Ferrari, dal punto di vista puramente territoriale, secondo lei che cosa potrebbe o che cosa dovrebbe comprendere questa soluzione diplomatica? Io temo che non possa che riconoscere la situazione sul campo, cioè si è creata una regione orientale abitata prevalentemente da russi, sostanzialmente autonoma. Questo non vuol dire che bisogna infrangere l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma parlare di federalizzazione, parlare di autonomie deve essere assolutamente fatto, altrimenti non si arriva all'interruzione delle ostilità e non si arriva a una soluzione di lunga durata. Professore, ci spiega anche un'altra cosa. Noi la chiamammo, in realtà l'ultima volta ci siamo sentiti fu all'inizio di questa crisi, e le chiedemmo una lettura dal lato russo della situazione, no? Lei che è esperto anche di quel paese, ci può aiutare anche oggi? Secondo lei come legge la Russia e come leggono i russi questa fase? In mezzo ci sono state tante altre cose, tra cui per esempio la crisi e l'attacco speculativo sul rublo. C'è il rischio che Mosca si senta, per così dire, accerchiata? Poi non è un rischio, è una realtà. Noi facciamo fatica a capirlo, ma per la Russia l'espansione dell'Unione Europea verso est, l'espansione della NATO, la possibilità di comprendere anche l'Ucraina sono percepite come minaccia. Per noi esistono le frontiere, giuridicamente stabilite, e per la Russia esiste soprattutto la storia ed esiste soprattutto la percezione storico-culturale che l'Ucraina è parte della Russia e perlomeno nelle sue regioni abitate prevalentemente da russi e russofoni. Se noi non capiamo il punto di vista della Russia, il che non vuol dire necessariamente accettarlo, ma capirlo va fatto, non riusciamo poi a muoverci diplomaticamente, non riusciamo culturalmente ad avere gli strumenti adeguati ad affrontare questa situazione. E ci aiuti a capirlo dunque questo punto di vista, professore? Bene, dal punto di vista russo esiste una unità russa, un'unica Russia da secoli che comprendeva non solo l'attuale Russia ma anche l'Ucraina e la Bielorussia, che poi in epoca sovietica negli anni 20 sono state divise con frontiere amministrative e non troppo corrette in maniera sostanzialmente artificiale. Dal punto di vista russo, Kiev è una città russa, buona parte dell'Ucraina è considerata parte della Russia, le due etnie sono strettamente collegate tra loro, ci sono matrimoni misti, ci sono proprio zone in cui è difficilissimo stabilire se sia russi o ucraini. E l'idea che questo paese esca per sempre del tutto dall'orbita storico-culturale e politica della Russia per entrare in Unione Europea e soprattutto in una NATO, che vengono percepite come aggressive, risulta inaccettabile. È una prospettiva diversa dalla nostra. Noi non siamo obbligati ad accettarla questa prospettiva, ma se vogliamo giungere a un accordo di pace dobbiamo tenere presente questo punto di vista. Comunque dice lei comprenderla. Le chiederei un'ultima cosa. C'è chi ha evocato grandi rischi nel caso la soluzione diplomatica fallisse, questo estremo tentativo di mediazione che sta avvenendo in queste ore. Lei vede il rischio di un'estensione della guerra, per così dire, anche verso ovest e non solo l'ovest dell'Ucraina, intendo anche più vicino a noi? Guardi, la prospettiva bellica è molto molto lontana, come avveniva già in epoca di contrapposizione bipolare, quando ci sono stati con deterrenza nucleare, arrivare alla guerra è praticamente impossibile, ma i rischi sono comunque altissimi, la situazione è già gravissima, è già un conflitto pesante che ha fatto molte vittime e sta destabilizzando i rapporti tra la Russia e l'Occidente. Non c'è bisogno che si aggravi ulteriormente il conflitto, però una fornitura di armi potrebbe inasprirle, potrebbe portare a conseguenze devastanti, previste non solo dai russi. Se lei legge anche i più acuti analisti statunitensi, la preoccupazione che si vada incontro a scenari di tipo iracheno o somalo è ben presente. Gli americani molto spesso non sono lungimiranti nelle loro operazioni. Per risolvere un problema istantaneo del momento creano situazioni che poi vanno avanti decenni. Temo che avverrebbe qualcosa del genere con una fornitura intensa di armi all'Ucraina. Siamo alle cronache italiane in questo caso, iniziando dalla situazione del maltempo nel centro e nel sud Italia. Scuole chiuse a Potenza e in molti altri comuni della Basilicata, dove la neve è caduta in maniera intensa. A causa delle temperature sotto lo zero, il pericolo maggiore è rappresentato anche dal ghiaccio, così come in Molise. Anche qui moltissimi comuni dove le scuole sono rimaste chiuse, stessa situazione in Irpinia e nel Sannio. Le intense precipitazioni nevose stanno causando disagi alla circolazione nelle province dell'Aquila e Teramo. Sulla Salerno-Reggio Calabria sono caduti alberi ed un palo dell'illuminazione ed è stato necessario chiudere lo svincolo di Eboli in direzione nord, ora riaperto. Neve anche in Calabria, in Puglia, particolarmente colpita la provincia di Foggia, e gran parte della Sicilia, fino a quote prossime alla pianura e sulle coste. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mentre il centro e il sud Italia si trovano almeno parzialmente sotto la neve, come avete sentito, con molti problemi, tra cui il Molise, dove in 60 comuni si chiudono le scuole, ci sono regioni d'Italia che fanno ancora i conti con la nevicata della settimana scorsa. In particolare ci riferiamo all'Emilia-Romagna e ci riferiamo alle zone dell'Appennino, dove ci sono ancora delle utenze senza elettricità. Gianmaria Manghi è il sindaco di Poviglia, provincia di Reggio Emilia, è anche presidente della provincia di Reggio Emilia e a lui abbiamo chiesto se da loro c'è luce. Ecco la risposta. C'è la luce del sole al momento, nel senso che abbiamo ancora 1240 utenze che sono in bassa alimentazione, ovvero che non ricevono ancora corrente elettrica. Quindi abbiamo appena terminato in questo momento un incontro con delle maestranze di Enel della prefettura, oltre ai sindaci, per cercare di capire in che tempi questo ulteriore coda, diciamo, dei problemi possa essere affrontata e risolta. Ma da cosa hai dipeso, Manghi? Che cosa è successo? È crollato un albero su un palo della luce? No, che... Guardi, è successo che la tipologia di neve, queste sono le spiegazioni che ci vengono date, una neve molto bagnata e di conseguenza pesante, si è adagiata sugli alberi producendo la rottura di tronchi e di rami come mai si era verificato in situazioni precedenti. Questo ha comportato ovviamente la recisione e l'interruzione delle trasmissioni tra l'alta tensione e la media tensione, quindi verso cabine a cui erano allacciati fino a 70.000 utenti. Questo è stato il picco che ha interessato la nostra provincia. Da 70.000 siamo rientrati a 1240 faticosamente in oltre 72 ore, ma il problema non è ancora completamente risolto. Mi ha parlato di 1240 utenze, ma me lo diceva come nel suo ruolo di presidente della provincia, cioè in tutta la provincia, diciamo, sì, così, sì, di Reggio Emilia. Sono 1240 utenze, sì, ancora senza elettricità. Ci sono famiglie in difficoltà, che lei sappia, Manghi? Ma qualcuna sì, perché il perdurare della situazione comporta ovviamente un freddo che si carica di ora in ora, soprattutto su chi è più esposto, in particolare le persone anziane. Noi abbiamo cercato di fornire dei generatori le situazioni più critiche, però è chiaro che non avendo avuto, se non ieri sera, una mappa completa della situazione da parte di Enel, abbiamo fatto fatica a raggiungere puntualmente tutti, perché questo è stato il problema principale. Si ha una vaga idea dei tempi dunque, oppure no? Noi abbiamo un nuovo aggiornamento alle ore 17 nella stessa sede di CCS, la centrale di controllo e sicurezza presso la protezione civile, nella quale ci dovrebbero dire che i problemi legati alla media tensione sono tutti risolti, restano aperti i problemi legati alla bassa tensione, di cui non c'è un censimento, perché Enel fino a stamattina aveva chiuso i numeri verdi, quindi tutti i guasti connessi a pali caduti o fili recisi che noi vediamo empiricamente sul territorio non sono stati raccolti. Ah, ok, quindi da stamattina si è iniziato a raccoglierli. Senta un'ultima cosa, vorrei capire se intendete agire dopo tutto questo in qualche modo, perché immagino che 4 giorni senza luce elettrica, un po' con l'Enel ce l'abbiate voi. Insomma, noi abbiamo già fatto presente alle maestranze di Enel quello che abbiamo detto ieri in sede di CCS come enti locali, ovvero gli enti locali della provincia di Reggio Emilia si faranno garanti e portatori degli interessi delle comunità in termini di interruzione di pubblico servizio reiterata, la quale non si è riusciti a mettere mano, diciamo, in tempo puntuale. Quanto tempo ci occorrerà per arrivare a definire una formula giuridica sostenibile lo affidiamo ai nostri uffici, ma l'intenzione politica è questa. E quindi agirete in giudizio, in sostanza, Manghi, agirete in giudizio? L'intenzione è questa. Ci sono due vicende che raccontano di mafia in queste ore che vogliamo approfondire. La prima è un'inchiesta di questa mattina, che ha portato tra l'altro all'arresto di un consigliere comunale, ma soprattutto ha fatto emergere questo, che stanno parlando le vittime del racket mafioso. Dopo anni di silenzio si incrina il famoso, scusate l'espressione un po' abusata, muro dell'omertà, e la DDA di Palermo ha fatto arrestare 27 tra estortori e mafiosi, 21 persone erano già detenute, 6 le nuove misure cautelari, e fatto luce su 13 estorsioni. Su questo c'è l'analisi del nostro Daniele Biacchessi. Ci sono almeno due novità nell'ultima indagine sulle attività di Cosa Nostra a Palermo. La prima riguarda 14 tra imprenditori e commercianti che hanno denunciato i loro estorsori alle forze dell'ordine. Messi di fronte ad un numero piuttosto elevato di indizi e di prove, tra cui intercettazioni telefoniche ambientali, gli imprenditori hanno riconosciuto i volti dei boss del clan mafioso che li minacciava e li costringeva a pagare pagare ogni mese ingenti somme di denaro. La seconda novità è la figura di un politico siciliano coinvolto nel meccanismo dell'estorsione. Il suo nome è Giuseppe Faraone, ex assessore alla viabilità del comune di Palermo, passato dall'UDC alla lista del governatore Rosario Crocetta al megafono. È la prima volta che un uomo politico così in vista nel panorama siciliano svolge un ruolo di primo piano nella raccolta diretta del pizzo. In altre indagini, infatti, i politici non si sono mai esposti in prima persona nell'azione sul campo contro le loro vittime. Faraone, secondo gli investigatori, avrebbe invece avvicinato un imprenditore che si occupa di forniture elettriche e gli avrebbe poi chiesto soldi a nome di alcuni presunti amici, ovvero gli esattori del clan San Lorenzo. Mafia, si diceva, a quanto si apprende è indagato un simbolo dell'antimafia. Chi è? È Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia, un uomo che tra l'altro ha sostenuto sempre pubblicamente e con forza di essere contro la mafia, tanto che l'ipotesi che sta circolando in queste ore, forse alla fine la più probabile, è che si stia tentando di far circolare del veleno proprio su Montante. Sentiamo Raffaella Calandra. Le dichiarazioni dei pentiti contro un simbolo della lotta alla mafia. Proprio nell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta citava gli attacchi contro i vertici di Confindustria e metteva in guardia contro il metodo subdolo, diceva, del discredito mediatico. Cita le parole recenti dell'alta toga nissena Alessandro Montante, delegato della legalità dell'Associazione degli Imprenditori, una volta presa la notizia dell'inchiesta a suo carico aperta dalla stessa procura di Caltanissetta. Contro di lui soprattutto i verbali di un neo collaboratore di giustizia, Salvatore Di Francesco, originario anche lui di Serra di Falco, 6.000 anime nel Nisseno, considerato collante tra Cosa Nostra e i colletti bianchi. Dichiarazioni che vanno indietro nel tempo tra legami di paese e vecchie amicizie come quella già nota con Vincenzo Arnone, figlio di un padrino e testimone di nozze di un allora 17enne Montante. Oggi a 52 anni l'imprenditore, partito dalla fabbrica di biciclette e ammortizzatori, è diventato uno dei volti della svolta di Confindustria, che espelle chi non denuncia il racket. Più volte minacciato dai boss, è stato appena designato dal governo tra i delegati dell'Agenzia dei Beni Confiscati, snodo fondamentale dell'antimafia dove si decide il destino dei soldi tolti ai clan. E ora le dichiarazioni dei pentiti, un'azione di scariamento come già più volte visto nella storia dell'antimafia. Di sicuro profeti, che scrive ora Montante, sono state appunto le parole del presidente della Corte d'Appello proprio di Caltanissetta, che ha voluto citare gli attacchi contro i nuovi vertici di Confindustria, spesso aggrediti, ha detto l'alta toga, attraverso il metodo subdolo del discredito mediatico, volto a riprodurre una strategia della tensione che potrebbe tradursi, avverte sempre il presidente della Corte d'Appello nissena, in azioni eclatanti, come purtroppo e si è già visto nella storia dell'antimafia. E per ora è tutto. Il calcio, non siamo ancora arrivati a quello giocato o a quello polemizzato, ma prima di tutto c'è il calcio scommesse, la chiusura delle indagini della procura di Cremona. Giovanni Capuano. C'è più di una sorpresa negli atti che la procura di Cremona ha inviato questa mattina a 130 indagati del filone principale dell'inchiesta sul calcio scommesse, che è quella partita nel giugno del 2011 e che ha coinvolto centinaia di partite di Serie A, B e Lega Pro, e che nel corso di questi 3 anni e mezzo ha visto anche aprirsi le porte del carcere per alcuni nomi importanti come Cristiano Doni, Omar Milanetto, fino al capitano laziale Mauri. I magistrati di Cremona hanno tirato le fila di quella maxi inchiesta e ora chiedono di processare 130 persone tra calciatori, allenatori, dirigenti, alcuni sono ancora in attività, e la sorpresa più grossa riguarda proprio la presenza di Antonio Conte nell'elenco, perché l'attuale CT della Nazionale, che all'epoca dei fatti era allenatore del Siena, pareva essere destinato all'archiviazione. Per lui l'accusa, che ribadiscono i magistrati di Cremona, è frode sportiva, mentre il capo di imputazione per i personaggi ritenuti centrali della vicenda, tra questi anche Doni, Signori e Mauri, è di associazione per delinquere. L'altra grande sorpresa, perché un suo coinvolgimento non era mai emerso dalle carte, è il rinvio a giudizio per Stefano Colantuono, che oggi è il tecnico dell'Atalanta, Colantuono che sarebbe finito nel mirino per i sospetti su un Padova-Atalanta di quel periodo, quello messo sotto inchiesta dalla procura diretta da Roberto De Martino. È scattata invece la richiesta di archiviazione per Bonucci e Criscito, che sono due degli altri nomi che erano emersi. L'udienza preliminare, da quanto si è preso, è prevista per la tarda primavera, mentre il processo dovrebbe cominciare in autunno. Dobbiamo ricordare che nei mesi scorsi, senza il grande clamore mediatico delle prime settimane e dei primi mesi, erano stati svolti decine di accertamenti anche su apparecchi elettronici come computer, smartphone e tablet, che hanno evidentemente consentito di ricostruire movimenti e contatti degli indagati. Tutta l'inchiesta infatti poggia sulla scoperta di una rete internazionale di gestione delle scommesse con cuore nel sud-est asiatico e ramificazioni in tutta l'Europa e non solo l'Italia. Per chiudere, ti ricordo che tutti questi filoni, Cremona e non solo, perché dall'inchiesta principale hanno preso il via anche indagini in altre procure italiane, soprattutto a Bari, dicevamo, tutti questi filoni hanno già portato una serie di processi sportivi che hanno però partorito squalifiche ridotte e spesso ulteriormente condonate o del tutto cancellate in sede di ricorso davanti al CONI. Uno di questi è proprio Antonio Conte, per lui la Procura federale aveva chiesto 1 anno e 3 mesi di squalifica, poi era arrivato un primo stop di 10 mesi. Alla fine Antonio Conte era stato fermo per omessa denuncia soltanto per 4 mesi, ora torna nel processo. C'è una vicenda che sta facendo discutere molto in queste ore a Roma ed è una vicenda che riguarda la possibilità da parte di alcune zone della capitale, si parla dell'Eur come zona pilota, di realizzare delle zone a luci rosse, per così dire, dei luoghi dove la prostituzione è tollerata, il tutto incentivando il fatto che la prostituzione si raccolga in determinate zone, elevando delle multe molto più forti per chi pratichi o usufruisca della prostituzione in altri luoghi. Appunto, come si diceva, una questione che sta facendo discutere in maniera energica. Sentiamo il servizio. Dividono e alimentano polemiche a Roma le ultime proposte allo studio del Campidoglio in materia di prostituzione, a partire dalla creazione di una serie di strade a luci rosse nel quartiere dell'Eur. Pensiamo a zone vietate e altre in cui ci può essere tolleranza, ha spiegato ieri il sindaco Marino, che dopo le bocciature arrivate nei giorni scorsi ha aggiunto anche che fuori dalle aree consentite sarà adottata la linea dura contro la prostituzione. Si pensa di inviare anche a casa dei clienti multe da 500 euro in cui si dice chiaramente che si tratta di sanzioni legate al fatto che si intrattenevano con prostitute, ha aggiunto il primo cittadino. Una proposta però subito bocciata dal garante per la privacy, che ha ricordato come la normativa vigente preveda che la notifica delle sanzioni, anche quelle amministrative, debba avvenire con modalità tali da garantire la riservatezza del destinatario. Ad incassare pesanti bocciature è anche l'idea della zona a luci rosse. Fare ciò che vorrebbe Marino senza un intervento del governo o del Parlamento è reato e favoreggiamento della prostituzione, taglia corto il prefetto Pecoraro, protagonista di un nuovo scontro a distanza con il sindaco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo agli spettacoli. Come si accennava in apertura, i BAFTA, i cosiddetti Oscar inglesi, che vedono il successo di un'italiana poco nota da noi se non nel mondo del cinema, ma ben nota invece a Hollywood. Il servizio. In Italia non è così nota, ma all'estero, come capita a tanti talenti che non siamo riusciti a tenerci stretti, Milena Canonero è una vera celebrità. Classe 1946 ne ha fatta di strada da quando, originaria di Torino, decise di trasferirsi a Genova per studiare arte e storia della moda, prima di traslocare definitivamente in Inghilterra e poi in America, dove vive tuttora. All'inizio piccole produzioni, sia per il cinema che per il teatro, poi a Londra la svolta, l'incontro fatidico con Stanley Kubrick. È lui ad offrirle il primo incarico da costumista a soli 25 anni in Arancia Meccanica. Un feeling professionale che continua con il film Barry Lyndon e che le frutta il suo primo Oscar nel 1976. Con Hugh Hudson, che le affida invece i costumi di Momenti di Gloria, arriva la seconda statuetta nel 1982. Ma è solo nel 2007 che riesce a conquistare il suo terzo Oscar con Marie Antoinette di Sofia Coppola. E adesso, con il regista Wes Anderson, dopo un Golden Globe e il BAFTA, l'Oscar inglese, ottenuto appena ieri a Londra, può davvero sognare di ricevere il suo quarto Oscar per Grand Budapest Hotel. E il film di Anderson ha trionfato davvero ai BAFTA, portandosi a casa anche il premio per la miglior colonna sonora originale, per il trucco, la miglior sceneggiatura originale, la miglior scenografia e appunto quello per i costumi di Milena Canonero. Il BAFTA come miglior film è andato invece a Boyhood. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, il calcio giocato. Giocato per modo di dire, perché è un calcio soprattutto polemizzato, quello delle ultime ore, Carlo Genta. Un sacco di polemiche, secondo alcuni, soprattutto la Juventus e gli juventini, pretestuose, quelle lanciate da Galliani, con la storia di quel fuorigioco, non fuorigioco, di sabato sera a Torino, sul primo gol, quello di Tevez. Ieri c'è stato questo botte e risposta tra la Juventus, durissimo il comunicato della Juve, ma ormai sono fatti di ieri, durissimo il comunicato della Juve contro il geometra Galliani, risposta dei rossoneri, bianconeri soliti arroganti. Insomma, si erano tanto amati, adesso non si amano più così tanto, né a livello sportivo in questo caso, né nella stanza dei bottoni della Lega, dove, come sappiamo, ora Milan e Juventus sono su fronti opposti. Per il resto, ieri sera abbiamo visto una buona Inter che va molto in altalena. Ieri ha giocato una buona partita battendo 3-0 il Palermo, nel segno di Guarin e Icardi, grandi contestati e contestatori della curva nerazzurra. Quindi anche in questo caso l'Inter fa fatica a trovare un po' di pace. Poi per il resto la Roma molto giovane, la Roma verde, come il cognome del ragazzino che ieri è stato il migliore in campo, tiene le distanze dalla Juventus e da un Napoli che non molla, che anche ieri ha giocato una partita molto sostanziosa contro l'Udinese. Ed è veramente tutto per il podcast di Effetto Giorno. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi ringrazio per aver scaricato la trasmissione. Se non vi siete ancora iscritti al podcast, ossia agli aggiornamenti automatici, con uno qualsiasi dei tanti sistemi che vi permettono, tramite il vostro browser, tramite il vostro smartphone, di avere in automatico l'aggiornamento, cioè appena è pronto il podcast in sostanza vi appare e vi viene segnalato, mi raccomando, fatelo. Fatemi anche sapere che cosa ne pensate. Effetto Giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, volendo il mio account Twitter, Simone Spetia, si scrive così, con la T. Io vi auguro una buona giornata, naturalmente ci sentiamo domani all'orario ordinario, ossia alle 13 in diretta sulle frequenze di Radio 24, oppure se volete anche tramite il sito con l'ascolto online, e poi ovviamente nel primo pomeriggio, come sempre, per il podcast. Ciao e buona giornata a tutti.